il provvedimento della Corte Costituzionale ha messo in evidenza che la convalida del trattenimento non poteva essere un atto puramente cartaceo e quindi un controllo rivolto unicamente all'esistenza dei documenti formali che astrattamente legittimano il trattenimento, ma deve comportare l'audizione del diretto interessato col diritto dello stesso di potersi difendere e farsi patrocinare da un avvocato. Stesso principio, in buona sostanza, è stato affermato anche in relazione alle ipotesi in cui non si provvede al trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, ma si provvede invece all'immediato accompagnamento alla frontiera. Anche in questo caso la pezza, mi si passi il termine, che era stata messa dal governo correggendo la stessa legge Bossi-Fini e prevedendo la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, non è risultata idonea, perché anche in questo caso si trattava di una convalida puramente cartacea, cioè si metteva in condizione il giudice di controllare la astratta legittimità formale di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera, senza però, tanto per cominciare, che vi fosse una effettiva possibilità di paralizzare l'esecuzione dell'espulsione stessa, perché la convalida normalmente veniva richiesta e ottenuta dopo la già avvenuta esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio, ma anche e soprattutto perché comunque in sede di convalida non si consentiva di fatto al giudice di esaminare la persona direttamente interessata e non si metteva in condizione questa di potersi difendere effettivamente. Uno potrebbe anche dire che questi sono puri e semplici sfizi formalistici, non è così, perché sarebbe così se si partisse dal presupposto, che è tipico della cultura italiana, per cui la pubblica amministrazione non sbaglia mai. Allora, se dovessimo partire da questo presupposto, a parte il fatto che ci troveremmo in uno stato simile a quello sovietico, ma allora non si porrebbe nemmeno il problema della difesa, perché se l'amministrazione non sbaglia mai, e questa sarebbe un'impostazione tipica di un regime totalitario, allora non c'è bisogno di difendersi. Ma siccome questo può accadere, anche se diamo naturalmente per scontato che accada solo in una parte minoritaria dei casi, ebbene, poiché questo può accadere, ci vuole un controllo di un soggetto che sia terzo rispetto all'amministrazione e che abbia anche una formazione giuridica adeguata. Ora, proviamo a immaginare il caso banalissimo di una persona che, ritenuta in condizioni di soggiorno irregolare, venga accompagnata immediatamente alla frontiera senza rilevare in alcun modo e forma che questo signore corre un fondato timore di persecuzione nel proprio paese, per esempio. Oppure proviamo a immaginare una persona che venga pescata, a me è capitato, a un centro commerciale senza permesso di soggiorno con sé, venga qualificata come cittadino clandestino accompagnato alla frontiera senza la possibilità di passare per casa propria e tirare fuori il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante la domanda di rinnovo in corso per esibirla all'autorità di polizia. Sono situazioni che si sono verificate. Oppure pensiamo a una persona che rientra nelle ipotesi in cui è vietata l'espulsione. E questo non riguarda solo i richiedenti asilo o le persone che comunque avrebbero un fondato timore di persecuzione o di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti nel loro paese, ma riguarda anche le persone in stato di gravidanza, le persone conviventi con cittadini italiani che siano coniugi o parenti entro il quarto grado, riguarda anche i minori non accompagnati. Proviamo quindi a immaginare che può verificarsi il caso di un trattenimento in un centro di permanenza temporanea, come pure di un'espulsione immediata alla con accompagnamento immediato alla frontiera, riguardante in effetti una persona che non potrebbe essere espulsa perché minorenne, perché in gravidanza, perché a rischio di persecuzione, perché convivente con cittadino italiano, oppure perché ha il permesso di soggiorno. Di fronte a questo tipo di rischi e alla possibilità che l'amministrazione, inconsapevolmente anche, sbagli, è necessario, poiché questi sbagli comportano illecite restrizioni della libertà personale, è necessario che vi siano le garanzie di difesa e quindi un effettivo controllo dell'autorità giudiziaria che per essere effettivo deve comportare necessariamente, uno, che il provvedimento non venga eseguito finché questo controllo non viene effettivamente svolto, due, che al controllo partecipi personalmente il diretto interessato assistito da un difensore.